è pieno di fiorentini. Ci vogliono le mani, mani, mani, mani. Regalami la tua energia. Una pallina al cerchio, una pallina al cerchio, una pallina al cerchio, una pallina, una pallina, una pallina al cerchio, una pallina al cerchio, una pallina al cerchio, una pallina, una pallina, una pallina al cerchio, una pallina al cerchio, una pallina al cerchio. Muoviti, muoviti, da, da. Mi carico, mi carico. Ah, eh. Tutto, tutto, tutto, dai, pronti! No, no. Ricky Fanni! Apri le ali e vai! Mi carico, mi carico, mi carico! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, capito, capito, capito, capito, capito, va bene, va bene, va bene, va bene, capito, capito, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Più su che c'è. Ah, pezzi mio mio. Stop the train. e nella speciale notte dedicata al cacciabombardiere per il suo compleanno. Lui è Ricky Perry. Musica! Gabinana salutano Ricky Perry. Attenzione, da questo momento tonno libero. storm of its way. C'è uno che assomiglia a Mauro Picotto, c'è uno vestito uguale a Mauro Picotto, signori, Mauro Picotto. Andiamo avanti, sulle mani, Jais che si vola. Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi. Thank you.